piano. Di Enrico Ruggeri. Ogni anno in Svezia si assegnano i premi Nobel, no? L'onorificenza più grande della storia, quella che premia i migliori nel campo della letteratura, della medicina, della chimica, fisica, economia, e poi naturalmente c'è il Nobel per la pace. Beh, se fosse possibile ipotizzare un premio Nobel per il calcio, le preferenze andrebbero a ricadere sul personaggio di cui oggi raccontiamo la storia. Insomma, forse ce n'è solo un altro che può competere con questo personaggio, l'altro si chiama Diego Armando, ma oggi parliamo di quello che è conosciuto come il miglior calciatore di tutti i tempi. È un eroe del suo paese, che è il Brasile, è un esempio per tutti quelli che giocano a calcio e che hanno provato, insomma, a ripetere le sue prodezze. E insomma, avete capito che stiamo parlando di Edson Arantes do Nascimento, che è universalmente conosciuto col nome di Pelé. E sulla sua vita sono state scritte decine e decine di pagine, libri, riviste, hanno fatto film, documentari. Oggi a noi sembrava banale raccontare la sua storia come fosse una pagina di Wikipedia. Ha fatto questo, ha vinto quest'altro. Noi vogliamo fare qualcosa di più, vogliamo riempire un ipotetico album di figurine con alcuni dei momenti più significativi della carriera di questo calciatore, di questo uomo, i suoi colpi d'ala, che non sempre coincidono con le grandi vittorie. A noi piace pensare che un colpo d'ala si può trovare anche in una delle piccole o grandi sconfitte che il destino ci fa provare. Sentirete che la vita di Pelé non è rimasta immune a tutto ciò. Devo tutto quello che ho al calcio. Credo che aver avuto un calciatore come padre sia stato l'inizio di tutto. Era un fatto genetico. Eravamo in Brasile, il calcio era ovunque, ma non avevamo nulla, neanche il pallone. E lo abbiamo dovuto creare infilando carta e stracci in un calzino. E non parliamo del campo. Dopo ogni partita tornavamo a casa ricoperti di sudore e fango. E la prima figurina di questo nostro album virtuale è la figurina classica, quella con il pallone di stracci, i bambini che giocano a piedi nudi per strada, con il campo, con le porte fatte con una scatola di cartone. E insomma, è un'immagine tipica dei calciatori di quella generazione. E siamo nel Brasile del 1940, nasce Edson e non Edison, senza la I. Lui l'ha puntualizzato più volte nella sua biografia Io l'unico re, edito da Mondadori. Siamo a Tres Corações, a nord di Rio de Janeiro, il 23 ottobre del 40. È arrivata l'elettricità e Don Dinho, il padre di Pelé, chiama il suo primogenito Edson, proprio in onore di Thomas Edison, l'inventore della lampadina. E devo dire, insomma, che il paragone viene spontaneo. Lì si accende una lampadina, anzi una grande luce che illuminerà i campi di tutto il mondo. Ci sono molte voci su come il piccolo Edson sia diventato Pelé. Chi gli ha dato questo soprannome? Pare che derivi da una storpiatura del nome di un altro giocatore, il portiere Bilé, che giocava nel Vasco di San Lorenzo, la stessa squadra nella quale giocava Don Dinho, il padre di Pelé. E Don Dinho, il padre, è stato una figura fondamentale per la crescita di Pelé, è stato il suo primo maestro di calcio, gli ha insegnato quello che sapeva, non solo come palleggiare con i frutti, i manghi raccolti direttamente dagli alberi, ma anche come saper tenere la palla incollata al piede, sia col destro che col sinistro, perché Pelé aveva tutti e due i piedi. Don Dinho ha avuto una carriera spezzata da un incidente ai legamenti e quindi ha trasmesso, insomma, la sua passione, la sua voglia di riscatto, ma anche la sua abilità tattica al figlio, che direi che ne ha fatto buon uso. E insomma, Don Dinho merita un'altra figurina nell'album che stiamo compilando. È stato lui a parlare con Valdemar de Brito, che era un ex giocatore, era famoso per aver sbagliato il primo rigore nella storia dei campionati del mondo nel 34, il Brasile-Spagna. De Brito è uno scopritore di talenti e lo ha notato quel ragazzino che sta giocando a piedi nudi nudi e che però con i piedi nudi è capace di magie mai viste, lascia un suo biglietto da visita a Don Digno e fatti sentire appena puoi. E, insomma, è una porta che si spalanca e Pelé si presenta per un provino per il Santos. Beh, naturalmente viene preso. Siamo nel 56, Pelé non ha ancora 16 anni. Lasciare la mia casa fu una vera rivoluzione. Mia madre decise che sarei sembrato ridicolo in calzoncini corti e così mi fece due paia di calzoni lunghi di cotone blu. Per i primi 15 anni della mia vita avevo indossato solo calzoni corti. Era arrivato il momento di affrontare il mondo e per farlo servivano i pantaloni lunghi. E così Pelé lascia Bauru e il posto dove ha trascorso i primi anni della sua vita arriva a Santos, vicino a San Paolo. Per prima cosa chiede di vedere il mare, di andare in spiaggia, di assaggiare l'acqua salata, perché questo ragazzino non aveva mai provato queste sensazioni. Peraltro era cresciuto in una delle zone più povere di tutto il Brasile. Poi arrivano i compagni di squadra e sono tutti degli adulti, degli uomini veri, e lui è ancora un bambino. Ma ancora una volta è il padre Don Digno che lo rassicura: non preoccuparti, starai bene, gli dice. E in quel momento comincia una storia d'amore tra Pelé e il Santos. È una storia d'amore che durerà fino al 1974, 18 stagioni indimenticabili per lui e per i suoi tifosi. E nel Santos Pelé indossa la mitica maglia numero 10, una maglia che ha accompagnato tutta la sua carriera. Gli inizi non sono facili perché lui è un ragazzino, le prime partite insomma non vanno benissimo, addirittura c'è un momento in cui lui vorrebbe mollare tutto e tornare a casa, però per fare questo viaggio ci vorrebbe l'autorizzazione dei genitori. E così, per fortuna, rimane. Nel settembre del 56 arriva il suo primo gol in una partita ufficiale. Comincia a giocare con regolarità per tutto il paese, si sparge la voce di questo ragazzino capace di attraversare il campo con la palla al piede, di fare gol in tutti i modi possibili, anche in rovesciata, quella che in Brasile chiamano la bicicletta. Lui la perfeziona, diventa quasi il suo marchio di fabbrica. E spesso tra il pubblico c'è anche Vicente Feola, l'uomo al quale è stato assegnato il compito di portare il Brasile sul tetto del mondo, l'ossessione dei brasiliani che il mondiale non l'hanno ancora vinto. E nel 58 bisogna andare in Svezia, ricordiamoci, il Brasile si sta ancora leccando le ferite per quel famoso maracanazzo, ne abbiamo anche parlato, quella finale del campionato del mondo del 50 che il Brasile ha perso, il gol di Ghigia al portiere Moacir Barbosa, di cui abbiamo raccontato la storia, fu un'onta, fu un trauma per tutta la nazione. E poi nel 54 in Svizzera il quarto di finale il Brasile lo perse contro l'Ungheria di Puskas, che non giocò, però diede vita anche a una famosa scazzottata che passò alla storia come la battaglia di Berna. Insomma, anche nel 54 il Brasile ha fallito, e questa volta nel 58 si va in Svezia e i brasiliani non ne possono più di sbagliare. Eppure c'è la Svezia di Grene Lidholm, che arriverà in finale, ma anche il Brasile arriverà in finale, e peraltro sconfiggendo i fortissimi francesi, nei quali gioca Jas Fontaine, il capocannoniere per ora ancora di tutti i tempi dei mondiali. L'unico team che non ha preoccupazione era il team francese, la squadra francese era l'unica che ci preoccupava, perché a quel tempo era la migliore. Eravamo convinti che se fossimo riusciti a battere la Francia saremmo diventati campioni del mondo, ma non pensavamo che il Brasile avrebbe giocato così bene e che io avrei segnato 3 gol. Ed ecco un'altra figurina per il nostro album. Pelé, che in semifinale con la Francia segna 3 gol e il Brasile va in finale 5-2. Finale in Svezia, siamo a Solna il 28 giugno del 58, e la Svezia non riesce a arginare e il Brasile, ancora 5-2 il punteggio, e 2 volte Vavà, poi Pelé, poi Zagallo e poi ancora Pelé, che segna quindi una doppietta, diventa il più giovane giocatore che si laurea campione del mondo a solo 17 anni. C'è un filmato molto famoso di questo bambino che piange sommesso emerso dai suoi giocatori veramente dimostra ancora meno dei suoi 17 anni. Il Brasile finalmente quella coppa la vince. Negli anni successivi a quella vittoria, Pelé diventa la stella del calcio di quei tempi e di tutti i tempi. Però questo non gli porta molta fortuna, perché lui è un giocatore così forte, fa qualsiasi cosa con la palla tra i piedi e i difensori lo sanno, e allora non ci sono prove televisive, e le entrate dure non vengono punite come oggi. L'unica soluzione è giocare sulle gambe di Pelé, così lui comincia a essere il bersaglio dei difensori. Le sue ginocchia sono spesso, e anche le sue caviglie, soggette a infortuni. Nel 62 si va in Cile, il Brasile vuole ripetere quel successo, l'appetito viene mangiando. Nel girone eliminatorio il Brasile ha davanti a sé il Messico, la Cecoslovacchia e la Spagna. La prima partita col Messico è una vittoria 2-0 e Pelé segna il secondo gol, però lui è arrivato ai mondiali non in condizioni fisiche ideali, e poi sul campo è sempre il più tartassato dagli avversari. Seconda partita contro la Cecoslovacchia, Pelé si infortuna all'inguine, non può lasciare il campo perché in quell'epoca le sostituzioni non sono permesse. I giocatori cecoslovacchi con grande fair play lo controllano ma non lo colpiscono più, ma Pelé ha capito che per lui il mondiale finisce lì, e questa volta la nostra figurina raffigura un giocatore sofferente che rimarrà al fianco dei suoi compagni fino alla fine senza poter giocare. Ma vestita da semifinale. Mentre mi allenavo la sera prima della semifinale, tentai di crossare, ma sentii ancora dolore. Ero molto amareggiato perché avevo capito che non avrei potuto giocare la finale. Peraltro al suo posto giocherà un calciatore che poi ebbe una grande carriera in Italia, che si chiamava Amarildo, ma poi ci sono Zagallo, ci sono Didi, va, e soprattutto c'è Mané, Garrincha. Sono questi i nomi che il 17 giugno 62 portano il Brasile a vincere la sua seconda Coppa del Mondo, battendo di nuovo la Cecoslovacchia in finale. E Pelé è rimasto con loro fino alla fine perché vuole vivere quel mondiale, anche se dalla panchina, e il Brasile vince. Pelé ha vissuto l'ennesimo grande colpo d'ala, non sarà certo l'ultimo, ci sono ancora molte figurine da attaccare per completare il nostro album. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Edson Arantes do Nascimento, da tutti conosciuto col nome di Pelé, per quasi tutti il più grande calciatore di tutti i tempi. Un uomo cresciuto nella povertà di un paesino nei pressi di San Paolo, diventato campione del mondo a 17 anni. E noi oggi stiamo idealmente compilando un album di figurine che stanno raffigurando alcuni dei momenti più significativi della sua vita, i suoi colpi d'ala. Ha vinto, anche se da infortunato, il suo secondo mondiale consecutivo nel 62. Nessuno ci riuscirà più. Pelé è diventato un personaggio famosissimo. Lo stile brasiliano è un fenomeno che tutti vogliono ammirare. La squadra del Santos viene invitata a una serie impressionante di partite amichevoli che daranno la possibilità a Pelé di girare il mondo, di conoscere giocatori stranieri, di mettersi a confronto con loro. Erano anni nei quali non si andava da una nazione all'altra come oggi. Si racconta che l'Inter, che Moratti avesse opzionato Pelé, che sarebbe dovuto arrivare in Italia dopo i mondiali del 66, ma andò diversamente perché l'Italia perse con la Corea e vennero bloccate le frontiere per una quindicina d'anni. E chissà se è vero che per colpa di Fabbri e di quell'Italia sciagurata l'Inter non ha potuto avere Pelé. Comunque, in questo momento il nostro protagonista sta cercando di mettere ordine nella sua vita, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Si sposa dopo 7 anni di fidanzamento con Rosemary, una ragazza bianca più giovane di lui. Insomma, tutti gli ingredienti per scatenare i giornali di gossip ci sono. La stampa specula molto sui preparativi del matrimonio. Qualcuno aveva scritto che sarebbe stato il Papa in persona a sposarci. Un altro aveva raccontato che per la cerimonia era stato affittato uno stadio. Tutte stupidaggini. Molti mi criticavano perché stavo sposando una donna bianca. Il matrimonio si celebra durante la settimana del Carnevale del 66, il 21 febbraio. Un ricco tifoso del Santos, un tedesco di nome Roland Ender, offre alla coppia un viaggio di nozze in Europa. Insomma, la coppia dal Papa ci va veramente, va da Paolo VI, ma il più famoso dei due non è quello vestito di bianco. Pelé è diventato una star mondiale e anche quando non gioca a pallone, e la sua carriera non è ancora finita. Dal punto di vista economico però le cose non vanno come dovrebbero andare. Per esempio c'è un uomo d'affari brasiliano che si chiama Pepe Gordo, Gordo in spagnolo peraltro vuol dire grasso, e Pelé gli affida incautamente la gestione dei suoi guadagni. Dopo il matrimonio Gordo comunica a Pelé che i suoi soldi sono spariti in alcuni investimenti andati a finire male, e quindi questa volta la figurina del nostro album non rappresenta un momento felice. Pelé deve rinnovare con il Santos, è un contratto particolare, il Santos si offre di sobbarcarsi tutti i debiti, Pelé però deve rimanere in quella squadra con un ingaggio molto più basso dei suoi compagni. In pratica il giocatore più forte del Brasile, il giocatore più forte del mondo, diventa anche quello meno pagato nella sua squadra. C'è un altro mondiale da giocare, quello del 66 in Inghilterra, nella patria degli inventori del calcio. Sul Brasile ci sono aspettative, si spera in un triplete, peraltro anche perché nel frattempo in Brasile ci sono i generali che hanno preso il potere, quindi come tutte le dittature, insomma i regimi totalitari, si spera di come dire, salvarsi la faccia vincendo il mondiale. Però ci sono dei giocatori come Garrincha che sono deconcentrati, fuori forma. Garrincha ha già iniziato la sua parabola discendente, e il Brasile si trova in un girone apparentemente abbordabile con Portogallo, Ungheria e Bulgaria. La prima partita la vince e un bulgaro, credo si chiamasse Zecev, andate a guardare se è vero, sfonda Pelé di botte come spesso accadeva. Pelé non è più lo stesso neanche lui, e il Brasile perde prima con l'Ungheria e poi con il Portogallo, si va a casa. E arrivano due anni difficili, lui che decide di abbandonare la nazionale per dedicarsi alla famiglia, anni altalenanti anche perché insomma il Santos gioca in un campionato che non è al centro dei riflettori, soprattutto in quegli anni. Poi però Pelé non riesce a rimanere indifferente al richiamo, diciamo, della patria, della squadra, dei carioca. Si comincia di nuovo a parlare di campionato del mondo perché si gioca in Messico, e Pelé decide di rispondere alla chiamata del suo ex compagno di squadra Zagallo. Insomma, in Messico Pelé ci va. Se devo paragonare la nazionale del 58 a quella del 70, dal punto di vista individuale, quella del 58 aveva i giocatori migliori, ma la squadra, nel suo insieme, era sicuramente meglio nel 1970. Il mondiale del 70, quello che per noi significa Italia-Germania 4-3, è una delle partite più grandi, insomma, della storia della nostra nazionale. E però nei mondiali del 70 il Brasile in finale ci arriva e batterà proprio l'Italia. Pelé segnerà il primo dei quattro gol, il Brasile-Italia 4-1, e c'è questa foto che tutti ricordano di Pelé che si arrampica in cielo sopra Burnic per colpire di testa e segnare ad Albertosi. E peraltro il Brasile vince questo mondiale con cinque attaccanti: Jairzinho, Gerson, Tostão, Pelé e Rivellino, tutti e cinque nella loro squadra di club giocavano col numero 10. In pratica il Brasile schiera cinque fantasisti e va a stravincere il mondiale. Terza vittoria per Pelé, nessun giocatore al mondo riuscirà a far meglio di lui, anche perché lui comunque sa che questo sarà il suo ultimo mondiale. Il giorno dopo il Sunday Times titolerà How do you spell Pelé? God. Come si scrive Pelé, si scrive Dio. Il falco e il gabbiano. E ci sarebbero ancora tante figurine da attaccare a questo nostro album virtuale che stiamo componendo sui momenti particolari nella carriera di Edson Arantes do Nascimento. Per esempio, quando Pelé vive ancora a Bauru, partecipa a un torneo di calcio con i suoi amici, ruba dei sacchi di noccioline per rivenderli e col ricavato si compra delle scarpe per non giocare a piedi nudi. Oppure di quella figurina di Pelé che rientra nel mondiale del 62, quello che lui aveva giocato solo all'inizio, e in una partita contro il Vasco de Gama il Santos è sotto di 2 gol, c'è un avversario, un certo Fontana, che lo prende in giro, gli dice dov'è quello che chiamano Rey, lui in pochi minuti segna 2 gol, pareggia, raccoglie il pallone, lo porta a Fontana e gli dice ecco, porta la palla a tua mamma e dille che è un regalo di Orey. In Colombia ero stato espulso e a un certo punto ci fu grande confusione negli spogliatoi. Entrò un dirigente della squadra e mi disse non cambiarti, devi tornare a giocare. Ma come, dico io, sono stato espulso. No, abbiamo sostituito l'arbitro con il guardalinee, altrimenti i tifosi distruggono lo stadio. E allora tornai in campo e fu espulso l'arbitro. E poi nel 74 c'è un'immagine bella, struggente, che rimane negli occhi umidi di pianto e nei cuori dei brasiliani. La partita è il Santos contro il Ponte Preta. Tutti sanno che è l'ultima partita di Pelé, lui ha dichiarato di voler lasciare il Santos, di ritirarsi, tutto viene organizzato prima, di solito ci sono festeggiamenti, cerimonie, bene, Pelé non ha organizzato nulla, vuole che sia il suo istinto a scegliere come chiudere la carriera. Iniziò la partita. Dopo 20 minuti mi ritrovai a centrocampo. Qualcuno mi crossò la palla, ma invece di controllarla di petto, la afferrai con le mani. Gli altri giocatori si fermarono. La folla tratteneva il respiro. Andai a centrocampo con la palla tra le mani, mi inginocchiai tenendola tra le gambe, alzai le braccia come a formare una croce con il corpo. Mi girai lentamente verso ogni angolo del campo, mentre le lacrime mi rigavano il viso. Un boato della folla accompagna il re, Orey, che a 34 anni lascia i campi di calcio per sempre. O almeno così sembra. Pelé è stato imbattibile in campo, però nella sua vita privata, soprattutto nel campo finanziario, non ha avuto quella genialità e quell'acume che mostrava in campo, forse perché non era preparatissimo, ha preso il diploma solo quando ha smesso di giocare a calcio, forse per l'ingenuità, forse semplicemente perché attorno alle macchine da soldi ci sono sempre delle persone che i soldi cercano di rubarteli, e ci è capitato a tutti, figurati a lui. Pelé spesso ha dovuto guadagnare per pagare debiti derivanti da cattivi investimenti o da manager che l'avevano derubato. E così nel 75 lui si è ritirato da un anno, arrivano alla porta gli americani che sono disposti a investire milioni di dollari per creare interesse nei confronti di quello che loro chiamano soccer. Pelé torna a indossare le scarpe con i tacchetti, va a giocare nel Cosmos a New York. È una squadra fondata nel 70 dai fratelli Ertegun, che erano i proprietari dell'Atlantic Record. È una squadra che dispensa ingaggi milionari e che ingaggia Pelé, Beckenbauer, Carlos Alberto, anche il nostro Chinaglia, insomma grandi campioni che cercano di contribuire per diffondere, per pubblicizzare il calcio negli Stati Uniti, un'impresa che insomma ancora oggi è in via di compimento. All'inizio fu tragico perché la squadra era nuova, composta per lo più da principianti. I problemi sono iniziati subito perché perdevamo 3-4-0. Diventavo pazzo e non sapevo cosa fare. Non ero abituato a quel tipo di calcio. Il ritiro definitivo avviene il 1 ottobre 1977, l'amichevole, quella tra i Cosmos e il Santos. E Pelé da quel momento diventa ambasciatore del calcio nel mondo e continua a presenziare a grandi manifestazioni di calcio. E io stesso ho avuto il piacere e l'onore di conoscerlo proprio perché nella famosa partita del cuore con Peres e Arafat e il presidente Ciampi presenti allo stadio, in realtà forse il faro che brillava più di tutti era proprio lui, era Pelé, che arrivò a stringerci la mano e a battere il calcio d'inizio. Purtroppo non ha giocato, mi sono dovuto accontentare, se così si può dire, di giocare con Maradona. Pelé ha visto giocare me, ma io non l'ho visto giocare lui. E su di lui, l'abbiamo detto, sono stati scritti libri, hanno girato film e c'è stata anche qualche volta, una in particolare, in cui lui ha partecipato come attore interpretando se stesso oppure vi devo ricordare il film mitico di Johnny Houston, Fuga per la vittoria, quello con Sylvester Stallone che fa il portiere, quello dei deportati in un lager che organizzano una partita e Pelé è il deportato più bravo di tutti a giocare a pallone. Il regista ricorda ancora di aver avuto grandi difficoltà per mantenere l'inquadratura su di lui, perché quando doveva girare le scene di calcio era troppo veloce per il cameraman. E arrivate qui, non cercate di sfondare, non cercate di fare gli eroi per segnare a tutti i costi. Il centrattacco lo voglio qui e a lui dovete passare, passare, passare sempre. Fate correre il pallone, non correte voi. Non cercate di corrergli dietro, non siete in condizioni di correre per 90 minuti, credete a me. Questo vale soprattutto per le ali. Se potete passare al centro, non ci andate voi, cercate il calcio d'angolo. Rallentare il gioco va a vostro vantaggio, il che significa che se... Mi dia il gesso. Colby, gli dica di passarmi il pallone qui. Che io poi faccio così, così, così, così, così, così, gol. Facile. Eh sì, è così è stato per tanti anni di carriera. Fu lui a inventare la frase passatemi il pallone e poi correte ad abbracciarmi. I colpi d'ala di Pelé sono stati tantissimi e noi li abbiamo raccontati in un ideale album che abbiamo assemblato per voi. Adesso vi aspettiamo con altre storie, segnalatevi a mail al falcoilgabbiano@radio24.it se conoscete qualcosa che merita di essere raccontato, oppure seguitemi sul sito di Radio 24, interagite con me sui miei social, sui nostri social, insomma se volete mi trovate. Obrigado, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri, testo di Dodo Chipinti, produzione a cura di Luigi Speciale e Chiara Compagnoni.